stavo guardando internet, cazzo, guarda che ho messo un link di questo bastardo che picchia, questo maestro bastardo che picchiava i bambini, cazzo, con la bacchetta di legno. Sono un pozzo già, sono un po' indaffarato qua. Stavo avviando la, mi sono avviato una pennice, una scheda USB audio con effetti ecco. Un pennino, una cosa, 35 euro è costata. Adesso aspettavo, da quanto ci metterò ad arrivare più o meno già, 5 giorni? 3 giorni ci metti, 3 giorni ti dico, ma come l'hai fatto? Con corriere? Ma come sono fatto qui? Ma con corriere? Ah boh! So già, io ho fatto pagare, adesso vediamo. A pagare. Cazzo, non sono riuscito a vederlo tutto, ci credi? C'è questo maestro che si picchia bambini con la bacchetta, ma forte, stardo, cazzo. Questo fotomontaggio. No, no, sono cose belle, lì, cazzo che... Che pensiero vede? Questo, roba di lampi c'era. No, sopra, ho sentito. Sono sceso giù a spostare la macchina, non mi dava il guri indietro a portarci la vente. Sono sceso giù e stava diluviando. Cagappa, questa mattina, ma quando la roba per domani? Cazzo vai, lunedì, vai. Cagappa. Quindi io faccio lunedì sera e martedì adesso, a riposo. Ma buono, te la manca a prendere pensione già. Ma lascia perdere. Guarda, io... ho 32 anni di contributi, ma ne sarebbero mancati una decina d'anni, là, penso. Adesso me ne mancano 3. Vabbè, allora, meno male, grazie a Dio ci sono arrivato, me ne mancano 50. Certo, ma con quel lavoro lì, allora, ci sono tipi di lavori che puoi farli anche quando c'è 80 anni, ma ci sono dei tipi di lavoro che sono deterioranti, ti greba. Lo so, vabbè. Ci sono tipi di lavoro, tipo fare il bidello, così, quello sì, va anche bene, oppure, non so, stare lì, se metti lì a rispondere alle telefonate, cose leggere, ecco, no, non vai in cantiere, ho 80 anni. Ti devi andare a lavorare, tu ci avessi di via via. Poi mi andando in pensione, non te ne vado al mondo, adesso, perché sei così. Quello sì, Tra poco non ti godi manco la pensione, non ti godi manco la pensione. Lo so, quello vabbè, mi devo arrivare già, purtroppo. Allora, la sorella a quel punto come sta? Sempre male? Che mia sorella c'è più così. Ma oramai non migliora più. Oramai è un vegetale. Poveraccia. E tutta, capito, fa dei movimenti robotici. È tutta rattrappita, le braccia le muove, non le muove, alza il braccio dritto e mette sempre il dito in alto, non so cosa voglia dire, ma non so se sia una persona nervosa o se voglia dire che se ne vuole andare in cielo, lo so ogni giorno, qualche cosa vorrà dire, magari anche la persona nervosa, però chi lo sa. Dove sta ricoverata qua a Sassari? Allora, rianimazione. Porca puttana, no. Che vita di merda, cazzo. Ma quello della rianimazione l'ha detto subito. Se l'avesse portata qua dall'inizio all'ospedale, avremmo fatto gli accertamenti e con una pastiglia lì sarebbe andata a parte perché era un diabete insipido, non era niente di che. Ma certo, vabbè. Vabbè, se vuoi va, purtroppo non è così, caro Gianni. È un casino. Non liberare le colpe, no? Questo non lo so, questo lo dovete dire voi, se lo sapete voi se la dite colpe o meno. Grazie. A chi Duca? Registrato, a chi dobbiamo dare le colpe? Non so, la dottoressa. Beh, le colpe ce le abbiamo, non è che le stiamo dando, perché se lei non era in grado di fare quello che doveva fare, passava a farla a ricoverare e una volta che la ricoveri scoprono che cosa c'ha. L'ha detto anche il dottore, non è che l'ho detto io, ha detto se uno non è in grado di scoprire le cose, passava a ricoverarla. Avanti il break, che ne scusi. Maria, Massimiliano, Archimede, buonasera a tutti. Ma quando è che te lo centri questo apparato? Oh Gianni, sei fuori di 2 kHz, è un po' eccessiva la cosa, Luca è centrato, ma tu sei fuori di 2 kg. Ma io ero. In base, probabilmente non ho rimesso a posto i parametri. Aspetta. Ti vediamo, buonasera. Ciao, tu sei perfettamente centrato. Vai bene. Ma Gianni è completamente fuori, infatti no. Stavo controllando, pensavo di avere io qualcosa di sbagliato, invece poi mi sono reso conto che era fuori, ma giusto per avvisarlo. Ma guarda, vedi. Passaggio un po' più lungo. 1, 2, 3, si è spostato Clarissa. No, no, sei sempre fuori. Sei a 27.073 invece che 0.75. Massimiliano. Buonasera. Guarda se è centrato questo, perché è in mezzo a due radio. Se non è centrato bene lo sposto verso destra, perché questo c'è poco da centrare. È quadrato. 74.610. Già ci sei. Ti mancano 400 Hz, ma va bene, ma Gianni è 2 kHz proprio, è 2,73, cioè 0,73 invece che 0,75. Ma infatti da Gianni è un periodo che lo ascolto, sembra sempre saturo, boh, non lo so se è derivato da quello, capito, glielo ho già detto, non lo ascolto più bene come prima, non so se è derivato dal microfono, se è derivato da questo... Da questo spostamento, no, io sto uscendo col baracchino, le radio grandi le ho tutte spente perché c'era una passata di fulmine poco fa, no, non volevo rischiare. Ciao anche al lupo, che sono al computer, sto facendo cosa, ci sentiamo dopo. Ci vediamo, ti chiedo una cosa, se possibile, un'informazione. Dimmi. Ho comprato una scheda audio USB per il computer, no? Per usarla in supporto anche per cantare, per avere effetti ecco. Avete il BIOS, è vero? No, non c'entra niente. Al massimo sul BIOS ha l'opzione quella di disabilitare la scheda audio della quella del computer, ma non te ne frega niente. Tu quando sei sotto Windows gli dici qual è quella che devi usare apposta, e poi avere anche questo 5, non c'è problema. Vabbè, se in caso, in tal caso non ci riesco, guarda che stavolta lo fai tu. Va bene. La casa l'ho ordinata, l'ho pagata 35 euro. Ma che mi serve? Cazzo, tutti cantano, io posso cantare, ho fatto musica, o parlo. Ce l'ho con la comunicazione, la microfona a stereo mix, cioè ce l'ho quella, mi ha letto un mail di quella chat, no? Che mettono questa scheda qua, fa tutto. Quindi mi ha fatto sentire effetti, ecco, va bene, me la porta. Ah, già va bene. Non c'è problema, allora, avanti Gianni. Cava. Un attimino solo che sto facendo una cosetta qua, dai, riprendo subito, rimango un attimo il QRX. Meglio Gianni. Vabbè, 74 e sì, però va bene. Infatti c'è più chiaro anche, la voluzione è più aperta. Aspetta, che questo mi piace il link. Allora ci sono 2, 3, 4. Ce n'è un'altra a descrivere ogni mese. Oh, l'altra volta ho trovato la foto già. Ho guardato questa foto, queste 5 ragazze belle, ma tu mi vuoi che trovano un bazooka, ma che cazzo. Bella bionda, è bella, fatte bene con questo bazooka per dare gatto. Sicuramente. Lo so, siamo simpatici, però almeno qualcosa ti fa ridere, se no. Guarda, con la trova condivido la mia nipote, aspetta. Massimiliano. Massimo. Sì, dimmi. Guarda questa che di coso, di Gino, di UWF. È un 140 che non aveva potenza in banda laterale, com'è? Perfetto, centrato. Fatta da zio Claudio, chiappa di rosmetro, era infatti leggermente spostata, poi non c'aveva potenza in banda laterale, fatta occhiometro, mi... bene, già va bene. Questo sparviero ancora serve a qualcosa? Sempre serve, non ti preoccupare. Ho preso una cultura, mi sono fatto con questi 140, oramai vado a occhio, e era parecchio spostato, addirittura girava, addirittura la manopola del VFO a vuoto. La radio com'è, Massimiliano? Non l'ho tirata molto, perché lui la vuole solo in banda laterale, non ne frega niente della M, hai capito? Ah, oh, va benissimo, gli aggetti sempre amplificata, è perfetta. Non è come la mia, ma comunque già va bene. Ma oh, va benissimo, è a posto. Pacca. In banda laterale, maschio, aspettate. L'ho dato sui 110 watt, dai. 100 watt modulati, 110 di picco, ma già va bene così, non c'è problema. Arrivi bene, 920, radio 5, super, amplificata, va bene. Ok. Ne sono ancora a volte stamattina a prenderla, ne ho lasciata a Gino. Dice che non si ammette, e allora l'abbiamo fatto salire. Era tutta inciucata, già da 2 anni ferma. A fianco, fischiando. Non hai spurie. No, non ho toccato niente. L'allineamento delle frequenze è buio, ho praticamente dato un pochino di watt perché non saliva neanche il lago dello Smith. Ho visto che c'è entrata perfettamente, va bene. Bene. Ricordati, Massimiliano, ma non a fare, a ciò sempre fermo, da fare l'allineamento. Non si riuscì a recuperarlo più con la struttura da fare lineamenti che avevamo lasciato, ti ricordi? Io me lo ricordo, no, Ucto. Io vado con il mio 440 aperto perché mi è partita la scheda dei piedi, avevo sfuggita e ho rifatto l'allineamento, però ho fatto l'allineamento saltando tutto il retro, poi il resto mi sono tutto aperto, sono tornato a casa, il generatore, il frequenzio, l'oscilloscopo, me lo riporto in laboratorio perché mi fa troppo casino qua a casa. E me lo sono detto due giorni, guarda, non ha centrato, e allora ho perso mezza serata solamente per fare la centratura, proprio per essere preciso, perché poi quando scalda sarà il quarto del vuoto, no, principale che si sposta, allora, piano piano, fatto scaldare bene, c'entra adesso, c'entra dopo, rifare raffreddare, rifare riscaldare, fino a quando a trovare la centratura giusta. Infatti adesso quando io lo accendo un paio di minuti perché va in temperatura il VFO, dove c'è il quarzo, e poi visto che aggancia bene e poi rimane preciso, centrato, e va bene, e nulla. Però due giorni, guarda, tra rifare quello, rifare la centratura di tutti quanti i VCO, la sezione ricevitore, poi fare quella di trasmissione, ti dico due scatole solamente per poi quando sei senza strumenti, perché il dato di spettro serve certo per la sezione di trasmissione, è un po' un macello. Il problema è quello, Massimiliano, il problema è quello lì, purtroppo è un casino. Adesso vediamo, poi è un peccato a CP che è con la radio, nuova, ti ricordi? Come l'avevi chiusa tu, è sempre lì dentro la scatola, non ce l'ho neanche qua, perché mi pare era rimasta da fare la parte, se mi ricordo, c'era 20, 40, 80, poi c'era anche 10 metri da allineare, insomma era tutta, poi una volta che la molli era tutta da rifare, capito? E quindi niente, l'abbiamo lasciata così. Vabbè, adesso vediamo com'è la situazione. Se ti capita che riesci a recuperare quello strumento, me lo fai sapere e così vediamo, va. Allora, mi pare che ce l'abbia Fabrizio, ha detto che c'era un amico che glielo dava e ce l'aveva Fabrizio. Te lo presta Fabrizio, lo possiamo fare. E glielo dico a Fabrizio se se lo fa dare da Mario, no, Mario Nattari. Se se lo fa dare da Mario, te la porto e me la fa, intanto ci vuole un paio d'ore, due, tre ore, quello che è. Capito, una scimmia, perché è un peccato, è perfetta quella pelle, c'è solo da allineare, era stata tutta toccata ed è solo da allineare, capito, perché c'ha una bella potenza, mi ricordo andava bene anche molto bene in trasmissione, tutto, capito. Già me la ricordo che poi l'avevo cambiato anche un componente della bruciata, ti ricordi? Vabbè, dai, se si riesce a recuperare l'angolo di stato già si può fare, già non c'è problema. Lo facciamo. Se si riesce a breve, me li tengo qua, gli attrezzi, però stare sempre sposto perché è troppo pesante. Oh, è una rottura, Non lo può fare perché ripensavo il 440 che ormai era. Si è sceso al fumo, come si suol dire. E l'ho voluto rimettere a posto, anche perché l'unico apparato che poi sto utilizzando così per tutto, che è comodo, accende, pronto, non sto lì a dimenarmi, accende tutto il resto. No, ma su quello non ci piove, va molto bene come radio, quindi non ci sono problemi, ottimo per la truppa. Questo M gli ha dato 60 watt, 70 watt modulati, dai, 70 watt modulati, e 70 watt va bene, 70 watt, l'ho aperto per un po' di più i watt in SSB, a lui interessava quello, adesso lo sto tenendo sotto controllo, vedo che va bene. Poi Massimiliano, ci sentiamo dopo che devo mandare un'email, così poi spengo anche il computer perché la giornata non è delle migliori oggi. Ho visto, figurati. Comunque hai dei picchi positivi di 10 dB, perciò stai andando veramente bene. Arrivi da 9,20 quasi a 9,30 10 dB e vai perfetto. Ma io sto andando da 7 watt e poi su parlato arrivo a picchi di 12 watt. No, io sono a 10 watt di portante, 20 watt di portante. Sì, come l'ho regolato io sulla T250 50 watt sul parlato, è ottimo per la truppa. No, l'ho proprio regolato piano perché mi ha detto non le fare superare la potenza di, insomma, il limite di guardia, perché intanto in AM non mi interessa, in FM la potenza la dà tutta e in SSB da intorno ai 100 watt sul parlato, va benissimo. Non toccato niente, nuova, cioè da un paio d'anni mi ha detto che era fermo. Ho fatto una bella pulizia, ho pulito tutto il frontalino, ho pulito tutti i coperchi e li ho richiusi. No, ci hai già parlato, no? Lo sai chi è? Gino, WF. Sì, già lo conosco. Ho avuto modo di parlarci già varie volte, già lo conosco. A me mi hanno offerto un 140 nuovo, con l'alimentatore, non so che cosa, ma non me ne faccio niente. Anche a buon prezzo, però non me ne faccio nulla. È bellino, per me è un doppione, poi c'ho anche 440 e mi basta e avanza. Ah, per la 27 va bene una cosa, non c'è problema, cosa devi fare? No, anche a me mi ha portato l'alimentatore dentro la scatola, infatti gli avevo detto, tu guarda, io non ho bisogno di niente, dammi solo, lascia solo la radio, a volte invece ha lasciato anche l'alimentatore, anche quello gliel'ho controllato, l'alimentatore di linea, solo che il PS4 è 30, speriamo che non lo sieda andando ad atterrare, ma non credo, comunque dopo lo provo a vedere, perché io sto usando il PS50, ma ho visto che non vanno a atterrare, già non lo siede. Però non vorrei mettermi in dubbio, perché se lo siede devo portarlo un po' di meno di 100 watt, 90 watt, 80 watt. Vabbè, poi vediamo, dai. Ok Massimiliano, sono le 8.05, dai, ti saluto così spengo anche il computer e lascio solo questa radio accesa, nel caso o voglia fare due chiacchiere dopo, ma sarà molto difficile, con un certo temporale così, ho già preso il colpo una volta, non voglio rimetterci nuovamente le radio, quindi stacco l'antenna generale, la butto in terra e stacco tutte le alimentazioni. Va bene, ci sentiamo dopo se coincide, altrimenti fate un buon fine domenica a te e QRA e niente, ok? Va bene, dai, ci aggiorniamo, io ci metto per attaccare l'antenna, ma no, che finisco stanotte. Ci sentiamo, buon proseguo, Claudio. Io ne stacco una, di puri le verticali lascio stare, stacco la Mantova che è quella più pericolosa, o Massimiliano, già lo sai, stacco solo quella e butto il capo in terra, non mi interessa, dai, ci aggiorniamo, ciao, salutoni. Ciao. Ah, Massimiliano. Dimmi. Cosa non mi entra? Perché nel mio praticamente la spegni la radio, sul 140 funziona così, la spegni, tieni premuto clear, dove c'è scritto clear e appare l'ultimo decimale, invece questo non entra, se avesse qualche problema l'avesse inchiodato il clear, questa cosa così, non entra l'ultimo decimale. Ma il clear funziona normalmente per cancellare? No, non funziona. Allora è inchiodato, devi aprire il cancellino e pulirlo, è classico. Se invece funziona può essere qualche altra cosa, però prima ti devi cercare facendo una frequenza e poi fai clear per vedere se te la cancella. No, ho messo la frequenza, appiccio tu e non me la cancella, niente. No, non la cancella neanche nel mio, Massimiliano. Nel mio non la cancella. Io ne ho due, altre due di 140, non la cancella, neanche quello là. Vediamo qua se la cancella in quello tuo. No, non la cancellano. E non è in memoria, Non la cancellano, Massimiliano. No. Però quando invece nel mio faccio, lo spengo e lo riaccendo tenendo premuto clear appare il decimale. Su questo invece non ci sono riuscito. Deve avere qualche altro problema allora. No, aspetta, tu devi stare in WFO. Fai enter e imposti come se stessi impostando la frequenza. Fai 1, 2, 3 e poi fai clear per vedere se te lo ricancella. Così devi fare. Non è a tastiera 140, Massimiliano. Ah, ce l'aveva, aspetta, ho un lapsus, come si suol dire in inglese. No, allora, se non c'ha... Sì, non è la tastiera, è conto che ce l'avessi. Pare che ci sia il diodo, pare che anche il 140 c'è il diodo per abilitare il tuo decimale. Vuol dire che non è abilitato allora, perché i miei, gli altri due che ho io, spengo, tengo premuto clear e lo fa, ma anche gli altri quando mi hanno telefonato, clear, come si fa per il decimale? Spegni o tieni premuto clear, accendi e ti appare il decimale. È in tutti, quando mi chiamano dico così e appare. Questo perché non appare per niente, ho provato in WFOA, WFOB, in split, senza split, A uguale B, l'ho resettato, niente da fare. Ma io mi ricordo che in ogni caso c'è sempre il diodo anche nel 140, a prescindere, capito? Ma ti stavo chiedendo prima che c'hai un problema su una parte, non so se è sempre un 440, che va via l'audio. Non è mio, è di Giampaolo, sì, è un 850. Praticamente cosa succede? Che tu lo accendi, è perfettissimo, è nuovo di pacca e guarda, è una bestia da tutte le parti, funziona perfettamente, però ogni tanto manca l'audio proprio. Vado a toccare il, adesso non ce l'ho io qua, andavo a toccare il la F gain, RF gain, così la F gain dovrebbe essere. È riaffare. Poi anche andando a toccare il potenziometro del volume, per capirci, non c'è niente da fare, rimane muto. Inserisco le cuffie, con le cuffie inserite vado nuovamente a muovere il potenziometro del volume e mi fa sordo. Allora riabbasso, sgancio le cuffie, sparisce nuovamente l'audio. Allora, lì possono essere contatti di, perché quando si inserisce le cuffie c'è un contatto che toglie l'audio all'altoparlante esterno, ma io ho avuto questo problema proprio questi giorni, infatti per quello che poi l'ho aperto e mi sono messo a sistemarlo, ma era un connettore sulle schede che con il tempo un po' si ossidano, infatti l'ho dovuto togliere, visto che era alpine, restringerlo un po', inserirlo e quel problema mi è sparito, proprio funzionava perfetto, poco a poco saliva, poi ritornava, poi stava diventando scemo, ed era un falso contatto, era, ma sicuramente lì è la stessa cosa, o sono i contatti della presa del microfono o è il potenziometro della F-Gain che è mezzo partito. Non lo so Massimiliano, io ho provato a aprirlo però sul digitale non ci metto le mani perché sinceramente parlando non ne capisco niente, ho visto che è tutto a spinette, balle varie, non so qual è la scheda audio, quindi se voi intanto devo passare a ritirarlo, me lo riporto a casa, se voi ti chiamo una di queste sere, se sei a casa rilassato e tranquillo, lo vediamo assieme, capito? Rilassate tranquillo un parolone. Se capita già gli diamo un'occhiata, una sardina, qualche cosa, ma non dovrebbe essere nulla di particolare, sicuramente è una cavolata, è una cavolata che però una radio del genere è molto bella, molto consistente, tra l'altro molto funzionante, tenerla così insomma la rottura di balle, anche perché infatti io ho detto già un po' chiama, siccome l'ha comprata da Franco da Montanari Magic Phone, e gli ho detto chiamalo e dire c'è questo problema, cosa ti dice, perché la radio è garanzia, capito? Non voglio, in ogni caso metterla a posto, già si mette a posto, non ci ho neanche pensato a dirlo a te la verità, anche perché non ti voglio disturbare in questo periodo che c'hai già abbastanza rotture di scatole. Però se è una cosa fattibile e tu sai appunto dove metterci le mani con la radio, a parte che c'è gli strumenti, c'è una di quelle spinette, sai, di quelle spinette che tu sai quale togliere, pulire con lo spray e rimettere a posto, si fa e basta, capito? Non gliela mando neanche su. No, ma farei una cosa, chiamalo invece a quando gli dici, guarda, così così, gli dici, posso farlo controllare a Massimiliano, che tanto già ci conosciamo e non c'è problema. Se lui ti dà l'ok, più che altro per la garanzia, capito? È quello che mi rompe, infatti con Giampaolo stavamo parlando di questo, capito? Ho detto, siccome è garanzia, non voglio crearti problemi. In ogni caso, insomma, già la radio già si mette a posto, non ti preoccupare. Tanto è vero che gli ho prestato una delle mie, sto uscendo con quelle, già ne ha altre, però lui è appassionato di quelle, quindi ho prestato una delle mie. E niente. Va bene, dai, tanto lunedì lui lo chiama, domani ha detto che lo chiamava in giornata, e poi lui faceva sapere cosa le diceva. In ogni caso adesso glielo dico di dirle se possiamo controllarlo noi, se puoi controllarlo tu, e così vediamo. Ok Massimiliano, ti ringrazio. Allora vabbè, questo è il decimale Gino, se lo tiene così, io non ho nessuna voglia di aprirlo e tagliare il violo, quello che c'è sul frontalino che mi hai fatto vedere tu, se va bene così, non aiutare. Non ho voglia, per il resto la radio è a posto, ci sto modulando, ha dei bei picchi di modulazione anche in banda laterale, in FM, in AM, io quello che potevo fare l'ho fatto. Ok Massimiliano, dai, un abbraccio, grazie dell'info e ci aggiorniamo più tardi se coincide, altrimenti a domani. Ehi Ian, dai, buon divertimento, ciao Claudio. Ciao. Tutti a mandicare, sì, sì, sì. No, oggi è Ramadan. Ma così è. No, io mi... Ma che sto cosa veloce. E me ci ripeto qua, perché una giornata come oggi, io la fare, per carità. Ma ci vediamo a modulare, Massimiliano. Tanto, guarda. Per andare in ciclo bisogna staccare tutto quanto, spegnere tutto, mettere in corpo l'antenna e via. Vabbè, ma lo sai cos'è? Che la parte è bello in queste giornate che non puoi uscire e ti fa compagnia. Se ti stacchi proprio queste giornate qua cosa fai? Boh. Comunque mi arrivi 9.50 pieno, eh. Va bene adesso. Sì. Vabbè che ho risistemato anche il mio, di ricezione che è diventato un po' sordo. Comunque 9.50 pieno. Però senza nulla, Vediamo un po' attaccato quando ti arrivo. Va? 1, 2, 3. 9.50 perché siamo troppo vicino, non si sente la differenza. Appagato. E comunque, siccome poco fa sono andato con Gianpaolo Silvestro, stavamo provando, si ha comprato l'S9 e stavamo provando a mandare a laterale, non riusciva a centrarlo per niente, di solito centro bene a tutti, si sentono perfettamente. E gli ho detto, secondo me è il microfono, perché c'è il microfono un bel alto, e mandare a laterale non va bene il microfono così, al vantaggio più 3 a manettone. E sicuramente per quello che non riusciva a centrarlo bene, sentivo che parlava ma non riusciva a centrarlo. Beh, se è eccessiva la pubblicazione, sì, succede quello, succede. Paga, allora era quello lì, e poi mi sono dimenticato di rimettere, di riazzerare praticamente il fine corso. Stavo toccando lì, manipolando per centrarlo, capito? E probabilmente è quello lì che era spostato. Sì, spostato di 2 kg, era tanto, era. È stato sì. Oh, vabbè che il galassi ce l'ha e scivola. Scivola ogni tanto, praticamente quando scalda succede, lampeggia, infatti 34, 35, 34, 35, 33, camminando, capito? Invece che fermarsi a 75, fa 74, 75, 74, 75. E basta che tu regoli appena aperto, non mangi appena avanti, si blocca e via. Senti Paracchini, dai, qua c'è il sono i tuoni, lampi, e lui brucia tutto. E vabbè, quando ribucia le prendiamo noi, vero Massimo? E allora, tanto che poi ci sono un po' di stazionali sono salite con la pioggia. Ah, dimmi te. Vabbè. 1.04. Solitamente non si muove, quando si bagna l'antenna si levano un po' e niente, tanto che ci sono le sovvenzioni statali per quando si bucia i baracchini. Così, per assurdo ti dico una cosa Massimiliano, non c'ho manco 1.1 di stazionari, cioè mi sono sceso e praticamente io di solito c'ho 1.2, non c'ho manco 1.1. Senti le raganelle che ci sono, che stanno fischiando, le senti già? No, non sento niente. Ah, eccole, carichine, io ce l'ho a 7, fisse, e urlano con la piano che non posso. Pure io qua a QRM proprio non è meglio, non è bello. Dico la verità, come QRM qua sto bene, non ne sento molto. Ehi, bene anche dall'antenna. D'altronde questa costa 30 euro, quella che c'è tu ne costa molti di più. Sì, vabbè, ma già faccio lavoro anche quella. Tanto mi... Una si sente, l'altra si sente, quella di una... Poi quando vuoi c'hai quella anche multibanda, usi quella multibanda se proprio non ti soddisfa quella. No, ti senti come urla, vedi Matteo. Come ci sentono, guarda, vai che ce n'è. Sta piovendo di nuovo. io non sento più maschi, allora ti giuro, non si sente niente qua. Io faccio il finestrone, si sente, si vede, si ascolta. Mi ha fatto la foto poco fa. Adesso si è visto il drone. Però io ho visto anche il lampo che mi ha illuminato in immenso. Ha visto? Aspetta, sono a posto qua. Vedo tutto vero. Da finestra della cucina io vedo il mare. Si vede la costa come si chiama lì, di Stintino, si vede le ciminiere, vedo, si vede anche vedo il mare. Sì, anche la casa è così, io vedo tutto Stintino, vedo Platamona, tutta la zona vedo, tutto, da casa si vede tutto, poi se ti metti sul tetto vedi anche la spiaggia. No, io la vedo se sono adesso al tetto. Ugualmente anche qua dalla finestra della sala radio fresco, si vede aperto, sono esposto, la finestra è esposta nord-ovest, verso Maestrale, tramontana Maestrale. È pure vero, so così, infatti ho messo i tiranti per quello, perché quando tira il Maestrale qua arriva come Dio lo manda. Ho visto, e anche questi giorni stava soffiando e c'era la canna a pesca piegata a uncino. Vabbè, sì, che la canna che si pesca, sì, che si piega, non è nulla. Il brutto è quando si piega anche il palo. Insomma, palo da 62 di diametro, spesso di oltre 3 mm. Se si piega quello lì c'è un tornado. Sì, vabbè, oh. Massimiliano, io ho visto alberi sradicarsi e cadere nella strada col vento, non è che la cosa che ha fatto Vicia Bufera, io stavo andando a Porto Torres, non so se mi spiego, lui lì a Sorso di Bidriatti, si è staccato un albero e è caduto in mezzo alla strada mentre stavo passando, io l'ho deviato, ho preso un ramo con la pattana, infatti ho perso la pattana della macchina. Però c'era acqua, cosa ti fermavi? Non potevi manco fermarti, c'era un torrente d'acqua che ti arrivava sul cofano. Cazzo, guarda, me la sono vista un bel brutto, stavo salendo lì a Monterraggio e c'era l'acqua che ti arrivava sì dal cofano della macchina, immagina. Così è brutto, così è brutto. Sì, sono fermati un E4, stazionaria. Così è una storia di scatola, bisogna fare attenzione quando è così. Vabbè, no, io vabbè, tanti già li ho visti, già ne ho messo, sono stato lì a lesinare. Però quando tracciarne tutto via così vuol dire c'è tempesta brutta, ma di quelle forti. Quello era un uragano, era che una tromba d'aria, cosa ne so, non ho mai visto una cosa del genere. Con la macchina scartando i cassonetti che camminavano, prima in città, ho dovuto fare il gincane, il cassonetto lì alla Budi mi stava perseguitando, capito? Io con la macchina camminando e lui appresso a me, così che non mi piglia la macchina. Già, va bene, allora, così. Giulia, hai visto quando modulo un pochettino, poi torna a 27.05 spazzato. Mezza giornata per fare questo lavoro, no, Dimitteo? Giusto per trovare il pelo nell'uovo, come si suol dire. Che poi a orecchio non si sente, che se sei leggermente spazzato non si sente, già non succede nulla. Io nel mentre mi sto riguardando nella dottore di spettro con lo strumento che hai visto sul filmato. E poi mi sono dovuto costruire un dispositivo che quando metto portante, modulo, mi sgancia l'antenna del ricevitore, perché sennò lo brucio, c'è l'uno di poi un'antenna amplificata, figurati, e tutta l'attenzione che gli entra. Allora ho fatto un dispositivo che come legge, come riceve più di quel tanto di potenza di ricezione, sgancia l'antenna e la mette in corto del trasmettitore in modo da non far entrare troppa potenza. Io adesso che sto modulando, lui in ogni caso riceve perché ce l'ho qua, però riceve 9,40 con picchi di 9,50 e male non succede nulla, no, non danneggio niente. Poi quando è molo portante lui vede che non c'è più segnale e allora se lo riporta, riattiva l'antenna. Vabbè, qualche video per attenuare il segnale ricezione non si può fare. Ha fatto questo qua, a me il segnale me lo deve attenuare quando io modulo e non quando ricevo normalmente, capito? Io quando modulo lui sente che è eccessiva la ricezione e sgancia l'antenna e la mette in corto, capito? Così da attenuare il più possibile non mette in corto l'antenna, ma mette in corto l'ingresso del ricevitore, modo da attenuare il più possibile la ricezione. Infatti ti ho detto, io sto modulando e lui riceve 9,40, 9,50, poi quando mollo riattiva l'antenna, rimette l'antenna al ricevitore e riceve di nuovo normale, però in questo modo evito di bruciare tutto. È buono, esatto, è come quando si utilizzano come monitor i baracchini, quando devi fare delle prove, che ti metti le cuffie su un baracchino senza antenna e cazzo il segnale rientra a manettone. Beh, infatti molte volte io quando uso qualche apparato in monitor per ricevere, e gli metto un PL cortocircuitato proprio per abbassare ulteriormente la ricezione, perché tu se lo lasci così secondo me va oltre quello che deve ricevere e non fa altro che saturare il ricevitore, a volte lo puoi anche danneggiare. Se cioè, questa cosa qua mi seccherebbe che si danneggiasse, e allora mi sono studiato questo circuitino e messo in serie al ricevitore. Lui normalmente c'è un relè che fa transitare il segnale dell'antenna normale, come se non ci fosse, però legge i valori sull'antenna. Quando superano quel valore che io gli ho impostato, che può danneggiare il ricevitore, naturalmente poco prima entra subito il relè e lo fa scattare quando io premo portante, perché legge di qualsiasi radio che io utilizzi in HF. Lui legge e fa intervenire il relè che mi sgancia l'antenna e nel suo momento mette in corto l'ingresso del ricevitore. Poi io quando mollo ci passa un secondo e mezzo, allora lo riattiva, ho fatto in modo che avesse un attimino di ritardo, perché può capitare che mollo, riprendo e quello lì rimane chiuso, e in caso dà tempo al sistema di riprendere. E quando io ho finito di modulare lui si sgancia di nuovo il relè e rimette l'antenna, la ricollega al ricevitore. Avanti. Ehi, già. Ci abbiamo i fuochi d'artificio a Protores. E cos'è? Trovi il lampo. Cazzo, l'ha passata. Non solo lì, no. Anche qua è così. Anche qua ho sentito dei bettoni. Massimiliano mi ha confermato che c'erano anche dei lampi. Ma io ho tutto abbassato le tapparelle e cose, quindi non vedo nulla. A certa ora sarà tutto e via. Ma comunque spiegano una cosa, che domani non sia così, perché cazzo è un casino, se no mi faccio il bagno. Domani è così, ciao Sandro. Pindaccio. Pindaccio, guarda quelle previsioni. Ma mi arrivano certe sciabolate qua da far paura, nel lampi là, e vabbè. E cosa ci vuole fare? Non siamo noi che comandiamo, purtroppo. Scusa Sandro, comunque adesso che tu stavi parlando, adesso c'è stato un tuono, cioè un lampo e poi un tuono. Come c'è stato il lampo mi ha agganciato il ricevitore, figurati quanto è forte la radiofrequenza che sprigiona. Per ora. Sì, non siamo ancora riusciti a capire la velocità del lampo, lo sai. Non sono riusciti ancora a calcolare. Ma il problema è quello che genera. Figurati ai ricevitori cosa fa, cioè alla parte ricevente di un apparato, tutta la corrente che gli entra. Ma avendo le antenne cortocircuitate non dovrebbe scaricare il lampo, no? No, ma allora non è il lampo in se stesso, anche se cade lontano come questo qua, che è caduto lontano, quando avviene il lampo, un fenomeno che si genera è quello della radiofrequenza, proprio come se fosse un trasmettitore, però trasmette a larga banda tutte le frequenze, ma trasmette con potenze esagerate, come se fosse un lineare, capito? Ma è esagerato. E naturalmente anche se hai l'antenna corticiclata non vuol dire niente, perché è come se tu stessi ricevendo una stazione radio di alta potenza. Ti noti che mi ha sganciato quel sistema che io ho di protezione? Similiano, ma se io metto una massa a terra dall'antenna a, diciamo, al tetto, una massa a terra, è peggio, ovvero, perché l'antenna si attiva in alto. Direi proprio di sì, non conviene metterne, perché fai una cosa del genere l'antenna diventa un parafulmine. Quindi è inutile che ci metta, non sembra come comportarsi. Vabbè, ma è una cosa di protezione anche per la casa, capito? Per non scaricare sul palazzo. Vabbè, ma se scarica per dire sull'antenna, scarica lì e tutt'al più ti danneggia l'antenna. Il male, diciamo che se c'è il cavo, colui cammina e ti brucia il barato quando c'hai, ma è già successo, Allora, io non faccio nomi, ma una signora che io consegno la roba, sono andato una mattina a consegnare, stava piovendo a dirotto, lampi, tuni e cose, ho trovato i vigili del fuoco, un lampo è entrato dentro la stanza, ha incendiato tutta la cameretta, tutta completamente, meno male che non c'erano loro dentro, i bambini erano tutti a scuola e tutto qua, se no lì a Porto Torres mi avvolta lì dietro. Apparati, ma se si sente da qua i temporali che ci sono lì, ma lì è esagerato, o era la ventola, erano i temporali, due sono le cose. No, io sono in cuffia, già me li sento. Già li senti? Guarda, sto microfono sta raccogliendo anche la mosca, ho già. Si sente. Ho detto, è la ventola o sono i temporali, due sono le cose. Aspetta, ma si mi legge. Va, Massimiliano. A me l'ha bruciato tutto. Giacomo, per me un attimo. Ok, là, sa. Se stai chiudendo, buonanotte, ci sentiamo. Ciao, buonanotte, adesso. Che mi dia? Sì, dimmi. Già non è successo nulla. No, sono con Giacomo che stiamo guardando i fulmini dalla finestra della cucina. Aspetta, la lontana, ma non si sa mai. E via. Niente, è un casino. Sta suonando e lampeggiando un bel. Chissà che è stato tutto, pure io, e metto tutto in sicurezza. Ehi, andai, se ti conviene, che la mandano è micidiale per i lampi. Dai, se poi magari dopo carico un po' di più e più calmo, già sono in ascolto. Kappa, se no ci sentiamo buonanotte, c'è in ambiente. Ciao. Ehi, ciao. Ciao Massimiliano, vabbè, conviene attaccare tutto? Ah, io non attacco niente, smetto di attaccare le antenne, buonanotte. No, sono sentito un po' di vento, ti spaventati, vuol dire, ma è il caso che sappi tutto oppure me ne frego e ci chiacchiero? Ah, io ci sto chiacchierando, se poi devo entrare, pazienza. C'è una volta per comprare l'apparecchio, buono, la scusa buona. No. C'è proprio due giorni per rimettere a posto questo e adesso lo devo cambiare. Buonanotte. Lo stai usando quello come il mio? Mi ti ha salutato Gianni, Fabrizio. Ciao Gianni, ma non te ne sei ancora andato, mica ti fulmina. No, ma buffonando, che molta gente è da purtroppo gli apparecchi, è entrato questa a casa. E a me lo dice, c'è un mio collega, nonché radioamatore, che un fulmine la notte, erano arrivati che i pompieri, un casino, perché avevano fatto battere il gas, e aveva sentito sto botto a casa e si era spaventato in una maniera incredibile. Poi sono usciti tutti i suoi strati, Filippo, l'indomani controlla bene, ha detto che aveva l'antenna sul tetto, non ne ha trovato un pezzo, c'era la macchina con pochi mesi di vita, era disintegrata, l'alluminio fuso, tutta cotta sul vetro, sulla cappotta, pezzi di tegole sulla macchina, gli ha disintegrato anche la macchina, ha fatto un buco, il vetro è entrato dentro la soffitta, è scaricato proprio sulla soffitta, aveva qualche raio e l'antenna era scollegata, ma l'antenna è che non ha trovato un pezzo, ti confutta. E anche a Nattalino gli aveva fatto un po' di danno, gli aveva rotto il computer, il motore del posto in campagna, insomma un bel po' di danno gli aveva fatto. Tu considera che quando proprio gli ha fatto l'antenna, ha detto che mi ha detto Fabrizio l'antenna, non ho trovato un pezzo, completamente sciolta, per il secondo gli è caduta l'antenna proprio il fulmine sull'antenna. Oh, scusate, la portante, stavo aspettando che mi rilanciava qualcuno dalla portante. Infatti quello stiamo dicendo con Gianni. Io ho fatto ecco, ma non mi rilancia nessuno, io ho finito di parlare con tutti gli altri, oppure stavo parlando, quindi volevo smettere, il fulmine aveva bruciato qualcosa, toccando squelci tutto quanto, invece era un rapportante. È andata bene, che tu non te lo c'è duro, una volta è successo che c'era qualcuno che faceva l'amore e ha lasciato la portante aperta e si sentiva tutto. Se mi ascoltando, no, maledetti, roba di risate ci siamo fatti, era oltre la mezzanotte. magari è individuato anche chi era, no? Vabbè, si dice peccato, ma non è peccato, io non lo dico chi era, ma già lo riconosci. Un attimo, di bianco, che mio figlio mi ha invitato ad andare a vedere i fulmini, un attimo. Erano i fuochi d'artificio, ci metto a vedere una cosa, vabbè, ci sentiamo qua fra qualche... Oh, lì siamo in ascolto, sono qua comunque. Ehi, vabbè. Da quella è una tavola di fulmini, adesso vado anche io a vedere se sta piovendo, va? Così almeno faccio qualcosa. Anche io, 5 secondi, comunque sono qua.